9 in punto. Un modo originale di iniziare la nostra trasmissione stamattina. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a 9 in punto. Chissà se Oscar me l'avrebbe sponsorizzata questa idea. Noi intanto lo salutiamo caramente, e per tutti quelli che sono ancora molto preoccupati per la sua assenza, lunedì ritorna Oscar Giannino al timone che gli spetta di diritto di 9 in punto. Detto questo, perché per iniziare abbiamo scelto la marcia nuziale. Abbiamo ancora negli occhi le immagini che hanno fatto il giro del mondo delle nozze da favola di William e Kate d'Inghilterra, ma avete visto in questi giorni sui giornali anche la sequenza di foto, qualcuno ci avrà fatto caso, che racconta la tragedia, perché almeno in questa maniera l'ha presa la protagonista come una tragedia, di Limu, questa cinesina di 22 anni, abitante nella città di Changchun, che non ha sopportato l'idea che il suo fidanzato l'avesse lasciata pochi giorni dalle nozze. Martedì scorso ha indossato l'abito bianco, poi ha tentato il suicidio provando a lanciarsi dal 7° piano di un edificio ed è stata salvata per il rotto della cuffia da un uomo che l'ha afferrata al volo per l'abito da sposa. Proprio scene di disperazione che difficilmente, io credo, potremmo vedere in Italia, dove invece a quanto pare dal matrimonio si scappa. L'analisi dell'Istat di qualche giorno fa è molto chiara nell'offrire lo spaccato sociale della nostra epoca. Sempre meno coppie di italiani convolano a giuste nozze per la crisi economica, perché il lavoro è precario, perché comprare casa è un obiettivo spesso impossibile, a meno che non si entri in banca accompagnati da mamma e papà, e quindi aumentano le unioni di fatto. Negli ultimi 2 anni sono mancati all'appello almeno 30.000 matrimoni, nel 2008 ne sono stati celebrati 246.613, nel 2010 poco più di 217.000. Negli anni 70, lo dicevo nell'anticipazione della trasmissione, erano 400.000. C'è stato un calo medio nell'ultimo biennio del 6%. Le regioni dove ci si sposa sempre di meno sono Lazio, Lombardia e Toscana. Le unioni di fatto sono oltre 500.000, spiega l'Istat. Un dato confermato anche dall'incidenza dei bambini nati al di fuori del matrimonio, una cifra in crescita esponenziale, il 21,7% del totale dei nati nel 2009. Lo dicevo prima, aumenta il numero delle nozze civili, ci si sposa sempre di più in comune, magari dopo aver fatto figli, e sempre meno in chiesa. Allora, una situazione che noi fino adesso abbiamo raccontato in modo asciutto, partendo dai dati Istat, ma che porta con sé tutta una serie di inevitabili implicazioni e commenti e considerazioni sui nuovi stili di vita, sulle nuove convinzioni morali, sulle modalità di educare i figli e di intendere il concetto di famiglia. Questa è una situazione non certo nuova, ma che ha fatto lanciare una provocazione importante all'Eurispes, che, presentando il suo osservatorio sulle famiglie, ha rilevato come tra il 95 e il 2008 i matrimoni complessivamente siano diminuiti del 15%. Siano aumentate le convivenze, si siano sviluppate nuove forme di famiglia, monogenitoriali, senza prole, ricostituite, omosessuali, cambiamenti che rendono necessario tirare a lucido la definizione di famiglia presente nella Costituzione, che secondo l'Istituto di Ricerca risulta oggi del tutto insoddisfacente. Tanti temi di cui discutere questa mattina, io vi invito a dirci la vostra all'800240024, oppure a scriverci al 349-238-6666. Commenteremo tutta questa, chiamiamola anche un po' così, rivoluzione sociale, della quale siamo comunque perfettamente consapevoli, con l'avvocato Gianettore Gassani, presidente nazionale fondatore dell'AMI, l'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. E buongiorno anche all'avvocato Andrea Catizzone, direttrice dell'Osservatorio sulle famiglie dell'Eurispes, quindi è una donna. Avvocato Catizzone, buongiorno. Mi fa piacere che sia una donna, perché quando trattiamo questi argomenti, me ne sono accorta un paio di giorni fa affrontando il caso di Dominique Strauss-Kahn, del quale volevo parlare per le implicazioni per il futuro del Fondo Monetario Internazionale, per la politica francese, mi hanno contestato in molti il fatto di non aver invitato donne. Pertanto stamattina evidentemente qualcuno come dire, faccio un po' di prevenzione prima che qualcuno contesti che il tema non sia affrontato anche con la componente femminile, visto che io vengo ritenuta insufficiente. Sono contenta che ci sia lei con me. Buongiorno intanto. Buongiorno a voi. Più tardi ci collegheremo anche con il professor Roberto Volpi, statistico, autore, fra le altre cose, del libro La fine della famiglia, la rivoluzione di cui non ci siamo accorti, e anche editorialista del Foglio. Allora, tutta la situazione della quale abbiamo parlato fino a questo momento possiamo solo definirla frutto delle problematiche economiche in cui oggi i giovani vivono. Sappiamo appunto, come dicevo, che c'è molto di più, c'è anche il tema dell'emancipazione femminile affrontata in maniera molto dettagliata dal commento che sul giornale ieri ha fatto Anna Maria Bernardini De Pace. C'è l'immaturità anche delle nuove generazioni, questo vedo che peraltro è già una riflessione che fanno molti ascoltatori che ci stanno scrivendo. I vincoli non piacciono più, c'è anche il terrore del fallimento. Un matrimonio che finisce a volte devasta economicamente, lo scriveva appunto il giornale ieri, ci si illude di ridurre i problemi della vita di coppia con la libera convivenza. Avvocato Gassani, io voglio cominciare subito con lei, non possiamo ridurre tutto ad una mera questione economica. No, la riduzione del tasso di nuzialità indubbiamente non va ricercata soltanto in una questione economica, ma certamente questa rappresenta sicuramente una delle cause principali. Perché se andiamo a verificare il mercato immobiliare delle grandi aree urbane, ma soprattutto di Roma e di Milano, ci rendiamo conto che due giovani normali che hanno uno stipendio normale non sono in grado di poter affrontare le spese di una locazione o dell'acquisto di un immobile. Sintetizza tutto molto bene un ascoltatore proprio con una battuta al fulmicotone: si sposi lei con 1.000 euro al mese, punto. Esatto, ecco. Esatto. Ma innanzitutto bisogna pensare una cosa, che il matrimonio non è più considerato l'unica forma di famiglia, non è più un progetto di vita, neanche per le donne che prima sognavano il principe azzurro, anzi, le donne sono maturate anche da questo punto di vista, perché non si fanno più condizionare. Non è vero che una donna che non si sposi sia una fallita, come si dice, una zitella. Una donna che non si sposa è perché ha fatto una scelta, per cui c'è anche questa libertà. Sì, qualche volta è la scelta dell'uomo che non la vuole, ma sto scherzando ovviamente. Sì, ho capito, sì, perfettamente anche, sì, sì, sì, tema dell'emancipazione femminile è certo. L'emancipazione migliore chiaramente è quella del buon senso, quella dell'equilibrio, quella del mancato condizionamento sociale. C'è anche il discorso che molti uomini temono il matrimonio, perché chiaramente quando hanno uno stipendio basso sanno che il loro matrimonio, se dovesse fallire, per loro è la morte. Mm-hmm. Perché noi abbiamo un fenomeno emergenziale nel nostro paese, che è quello dei padri nelle mense dei poveri. A Roma ce ne sono 90.000 insospettabili impiegati o insegnanti o comunque dipendenti della pubblica amministrazione che dormono nei dormitori, in auto, da mamma, che fanno la fila per un piatto di maccheroni. Tutto questo spaventa, perché non c'è una politica per la famiglia, non c'è un sostegno per chi si trova in miseria a causa di un matrimonio fallito, ma anche le stesse donne spesso non vengono aiutate quando i mariti non pagano gli assegni, perché ce ne sono anche di queste vicende da parlare, non c'è solo il padre separato alla mensa. Oggi abbiamo anche tante donne che non riescono a mantenere i propri figli perché il padre si defila. Ci sono tante situazioni insieme che stanno in qualche modo disincentivando questo grande passo del matrimonio, che non viene visto più come un diritto di tutti acquisito, ma più che altro un lusso che pochi si possono permettere, e questo è l'aspetto più triste. Poi indubbiamente c'è una nuova mentalità che si sta affacciando anche in Italia, che proviene dai vicini paesi europei, che è quella della coppia di fatto. Negli altri paesi le coppie di fatto sono numericamente molto superiori a quelle italiane, ma gli italiani hanno capito che ci si può amare in mille forme, e del resto molte famiglie more uxorie hanno una struttura familiare sovrapponibile a quella degli sposati, hanno anche loro magari una casa più piccola, mettono al mondo figli, li portano a scuola e si comportano come veri e propri mariti e mogli, chiaramente senza quei vincoli e senza quei pericoli di una sorta di contratto capestro che oggi è il matrimonio. Il tema quindi non è prettamente l'aspetto economico, il tema è proprio il concetto del vincolo in senso generale, avvocato Gassani. Non sarei così cattivo nei confronti delle nuove generazioni parlando di una sorta di deresponsabilizzazione. Probabilmente noi abbiamo consegnato, io ho quasi 50 anni, abbiamo consegnato ai giovani di oggi questa società, e dovremmo tutti quanti passarci un po' la mano sulla coscienza. È facile liquidare la vicenda dicendo che i giovani di oggi non vogliono responsabilità. Se noi ai giovani di oggi abbiamo consegnato una città come Roma, che per affittare un appartamento di 3 stanze ci vogliono 1.500 euro, non è colpa dei giovani, è colpa anche di noi altri che abbiamo praticamente distrutto la speranza di tante nuove generazioni. Se l'Unione di fatto, avvocato Gassani, poi vado all'avvocato Catizzone con tutte le considerazioni interessanti che l'Osservatorio sulle famiglie dell'Eurispes ha presentato nei giorni scorsi, se l'Unione di fatto, le chiedo, trovasse definitivamente una dignità legislativa, le unioni fallirebbero di meno secondo lei? Avvocato Gassani, sì. Sì, sì. Noi dobbiamo considerare una cosa, che le unioni di fatto, secondo il centro studi dell'AMI, sono almeno 1 milione. 100.000 bambini all'anno nascono nelle coppie di fatto. Purtroppo c'è ancora una mentalità discriminatoria nei confronti delle coppie di fatto, perché nel codice civile non c'è una sola norma che preveda una tutela minima per i conviventi, e anche i figli delle coppie di fatto sono ancora etichettati come figli naturali e il loro giudice competente è il Tribunale per i minorenni. Questa orrenda discriminazione fa capire, che esiste poi tra l'altro solo in Italia, fa capire che sarà molto difficile e tortuosa la strada per le coppie di fatto. Per esempio, consideriamo l'ipotesi di un convivente, spesso sono le donne ancora più deboli economicamente, soprattutto nel centro-sud, che può essere messa alla porta da un momento all'altro, anche dopo 20 anni di convivenza, senza poter accampare il diritto nemmeno ad un assegno alimentare per sopravvivere. Noi non possiamo accettare tutto questo, perché noi avvocati, poi tra l'altro abbiamo il polso della situazione, tante volte abbiamo delle donne disperate, anche degli uomini qualche volta, che vengono a noi e dicono: io ho dato la vita a quest'uomo, gli ho fatto da serva, gli ho dato tutto quello che potevo dare, gli ho messo al mondo i figli, mi ha cacciato via di casa, che posso fare? La mia risposta: niente, può solo tutelare i suoi figli, ma lei non avrà diritto a niente. Questo non è giusto. Certamente non vogliamo fare un doppione del matrimonio, ma i diritti minimi in un paese europeo non possono, devono essere riconosciuti. Non possiamo essere razzisti, basta con le discriminazioni, basta col nome figli naturali, i figli sono tutti legittimi e tutti naturali, basta con i figli di serie A e di serie B. Cioè, tutto questo deve finire. Purtroppo noi siamo un paese da questo punto di vista molto molto indietro rispetto agli altri. Tra l'altro questa è anche un'osservazione direi centrale tra quelle che faceva ieri sul giornale la sua collega Anna Maria Bernardini De Pace, che diceva che molti convivono e rifuggono dal matrimonio anziché appunto sposarsi, perché convivono anziché sposarsi, perché suggestionati dal pericoloso equivoco che così ci sono meno problemi e ci lasciamo quando vogliamo. Invece, e lei lo spiegava adesso molto bene, anche dalle convivenze poi nascono accese battaglie giudiziarie e creativi percorsi di vendette e rivendicazioni. Leggevo di un caso, adesso non mi ricordo dove, se su un'agenzia o su un giornale in questi giorni, di una coppia che raccontava del fatto appunto che la loro è un'unione di fatto da oltre 20 anni, hanno 2 figli, la donna raccontava di quando è stato necessario andare all'anagrafe per la registrazione della prima figlia, credo, lei era reduce peraltro da un parto cesareo, quindi non stava proprio bene, però credo, avvocato Gassani, che per la registrazione in comune all'anagrafe sia necessaria la presenza di entrambi i genitori, fossero stati sposati sarebbe stato sufficiente che andasse solo il papà alla registrazione all'anagrafe. Certo, ma le volevo anche aggiungere una cosa, che non si è parlato in questi giorni del nuovo fenomeno delle famiglie allargate, che è un altro fenomeno importantissimo, sono circa 800.000 in Italia. E vorrei anche aggiungere che le coppie di fatto spesso sono anche non solo per scelta ma anche per forza. Lei consideri che io ho la fortuna di lavorare anche a Parigi, abbiamo una sede anche a Parigi, e noi ci rendiamo conto lì, per esempio, che per divorziare ci vogliono pochi mesi. In Italia, per avere lo stato libero, se non si riesce a trovare un accordo, si può aspettare anche 13 anni. È chiaro che se una persona si è separata e ha trovato un nuovo compagno o una nuova compagna, prima di arrivare allo stato libero, se tutto va male, dovrà aspettare una decina d'anni e anche di più. Ed è evidente che queste coppie di fatto sono obbligate ad essere tali. Per cui dobbiamo anche valutare la lunghezza insopportabile, mastodontica dei nostri processi, perché in Italia per esempio esiste prima la separazione e poi si instaura un nuovo giudizio che è il divorzio. Negli altri paesi divorzio e basta. Per cui anche il processo del familiare, della separazione e del divorzio, è lungo e disincentivante. Quindi, esatto. Questo tra l'altro porta anche, avvocato, poi magari lo consideriamo nella seconda parte della trasmissione, anche a spiegare le motivazioni per cui teoricamente ci sarebbero molti più matrimoni, perché ci hanno elevato tasso di secondi matrimoni. Quindi se tutto il procedimento magari di separazione fosse più semplice, effettivamente magari le seconde nozze sarebbero più numerose e questo porterebbe anche ad un aumento della statistica generale proprio del matrimonio. Avvocato Catizzone, le faccio sentire una riflessione di Stefano da Roma, poi vado a lei, a quello che dice l'osservatorio di Eurispes e perché avete lanciato questa provocazione così importante. La definizione di famiglia nella Costituzione è insoddisfacente, va cambiata. Stefano da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno e un saluto a tutti i partecipanti e gli ascoltatori. Dunque, io ho 57 anni, appartengo culturalmente a una certa linea di pensiero e non do le colpe nella mia valutazione ai giovani, a una cosiddetta immaturità, tra virgolette, perché come ha detto l'avvocato che mi ha preceduto, la colpa è delle generazioni che hanno preceduto queste recenti. Il problema è un fatto culturale a livello nostro italiano. Noi siamo uno Stato, se possiamo chiamarci uno Stato, un territorio anomalo, perché abbiamo delle presenze molto inquietanti. Cioè il nostro concetto di famiglia è viziato proprio a livello, perché la famiglia è anche una definizione per cui siamo famosi a livello mafioso, cioè non ci dimentichiamo che noi senza arrivare a questa deriva, Stefano, qual è insomma il tema che voleva porre all'attenzione anche dei nostri ospiti? Perché i giovani non si sposano? È un po' il concetto, però. No, noi siamo uno Stato il cui prodotto interno lordo per il 35% è in mano alle famiglie mafiose. Siamo uno Stato che è stato gestito fino a poco tempo fa dal Vaticano e ancora oggi ci sono delle connivenze culturali. Stefano, dove vuole arrivare? Andiamo al tema. Allora, lei ha dei figli, si sono sposati. Non ci possiamo paragonare alla Francia da questo punto di vista. Noi siamo ancora in epoca veramente arretrata, cioè dobbiamo fare degli sforzi enormi. Chi li farà questi sforzi? Questi giovani che hanno ancora questo cordone ombelicale, è così, chi ha voglia di cambiare, i giovani che hanno voglia di cambiare o si devono rimboccare le maniche e fare un'opera in mano oppure se ne devono andare via da questo paese. Stefano, allora qua abbiamo declinato in maniera estrema l'argomento di questa mattina che già di per sé ha 2 milioni di implicazioni. Avvocato Catizzone, circoscriviamo di nuovo l'argomento alle motivazioni per cui ci si sposa sempre di meno. L'ultimo osservatorio di Eurispes, appunto, lo ridico ancora per l'ennesima volta, addirittura sostiene che vada cambiata in Costituzione la definizione di famiglia. Perché siete arrivati appunto ad una conclusione così importante, così drastica, mi permetta anche? Ma noi non siamo arrivati a nessuna conclusione, noi siamo all'inizio di un percorso di lavoro che parte da un'analisi della società. Del resto questa è la funzione dell'Eurispes da sempre, di analizzare i fenomeni sociali, quindi non è né un organo deputato a emettere delle sentenze né un organo deputato a stabilire delle leggi, quindi non è questa dell'iniziativa da parte dell'Eurispes non può né essere definita una provocazione né può essere definita una conclusione, ma è un'attività di studio che parte dall'idea che da un'osservazione della società per cui la famiglia ha subito un'evoluzione continua nel tempo. Le ragioni di questa evoluzione sono determinate in parte, come si è detto, da fattori di carattere economico, ma anche dal tipo di organizzazione sociale e culturale che stiamo vivendo. Quindi ci siamo resi conto che, e del resto non ci siamo resi conto solo noi, è evidente che ogni nucleo familiare oggi sia colpito, comunque viva l'esperienza di una separazione o di figli che convivono senza essere sposati o di figli che hanno della prole senza unirsi né in matrimonio né in convivenza. Quindi noi semplicemente come istituto di studio abbiamo il compito di analizzare quella che è la società e poi di costruire un rapporto. Del resto in parte quello che veniva già definito, già descritto precedentemente rispetto alla situazione dei padri è già inserito nel nostro rapporto Italia del 2001, in cui si fa un'analisi dettagliata dell'impoverimento dei padri e del nuovo cambiamento delle strutture familiari. Ecco, noi con questo osservatorio ci siamo posti l'obiettivo di analizzare la società attraverso la lente familiare, quindi abbiamo individuato 14 punti, 14 tematiche che saranno poi approfondite dai nostri ricercatori qualificatissimi, dalle quali poi emergeranno degli studi che fotografano la realtà sociale italiana in questo momento. Avvocato Cattizzone, le chiedo un minutino di pausa, un minutino di pazienza, perché adesso andiamo in pausa, poi ci spiegherà appunto come declinerete la vostra ricerca, quali sono le 14 direzioni che prenderete, appunto, quindi le 14 tematiche da approfondire proprio per fare questa molto speciale fotografia appunto della realtà, come lei giustamente la definiva. Io ricordo ancora agli ascoltatori che possono chiamarci all'800 24 00 24. Non vi dico che marea di messaggi sta arrivando, naturalmente le considerazioni sono tante, d'altronde gli osservatori di statistica scattano delle fotografie che sono molto dettagliate, come quelle anche degli osservatori che abbiamo raccontato questa mattina, ma ovviamente poi andando ad analizzare del dettaglio ognuno ha la singola storia da raccontare ed effettivamente le implicazioni sono molteplici, avrebbero tutte appunto la dignità di essere raccontate. Speriamo di poter raccontare quante più storie possibile sulle motivazioni che vi portano a non sposarvi, a separarvi sempre di più, insomma, tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta, ancora una buona giornata da Deborah Rosciani. Oggi abbiamo scelto di affrontare un argomento che per tutte le implicazioni che sta portando avrebbe la necessità di poter essere analizzato in tutta una giornata di palinsesto di Radio 24. Siamo partiti dalle statistiche dell'Istat di qualche giorno fa che ci raccontano che in Italia ci si sposa sempre di meno, che aumentano le unioni di fatto. La cifra più importante, più rilevante, è quella che nel 2010 sono stati celebrati 217.000 matrimoni fra primi matrimoni e seconde nozze. Negli anni 70 erano 400.000, ma appena nel 2008 erano 246.613, quindi la discesa è costante ed inesorabile. Aumentano, dicevamo, le unioni di fatto, aumentano i bambini nati al di fuori del matrimonio, aumentano le unioni civili, i matrimoni in comune, sono sempre di meno quelli religiosi. Insomma, tante implicazioni. C'è chi attribuisce a questa situazione esclusivamente un'implicazione di natura economica, c'è chi invece parla esclusivamente di maturità delle giovani generazioni. Come per tutte le cose, la verità sta nel mezzo, dipende poi chiaramente dalle singole situazioni. Comunque, professor Roberto Volpi, statistico, autore tra le altre cose, oltre ad essere editorialista del Foglio, scrive spessissimo su questi argomenti, ha scritto qualche anno fa La fine della famiglia, la rivoluzione di cui non ci siamo accorti. Buongiorno intanto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. So che può stare con noi solo per pochi minuti, per cui la spremo immediatamente. Allora, lei lo scorso anno, io mi sono ritrovata alcuni articoli sul Foglio appunto che ha scritto, analizzava un altro rapporto dell'Istat, quello sull'aumento delle separazioni e dei divorzi, diceva chiaramente che dietro ai dati Istat c'è una realtà che nessuno vuole vedere. In Italia intanto sono le donne ad usare prevalentemente la rottura del vincolo matrimoniale con più determinazione e più frequenza come un'arma che ridisegna ruoli e responsabilità. Indietro, dice, non si torna. Gran parte della situazione nuova che ci porta oggi ad analizzare il calo dei matrimoni, lei, io sintetizzo molto, poi chiaramente l'analisi è molto più articolata, la attribuisce comunque anche alla legge sul divorzio degli anni 70. Professor Volpi, è così? Assolutamente. Perché? Bisogna partire, guardi, da una considerazione che difficilmente viene fatta, ma io credo che sia quella più centrale in relazione al discorso che state facendo questa mattina, cioè il matrimonio in Italia è stato un grande successo, un grandissimo successo, è stata l'istituzione di maggiore successo di sempre. Tanto che lo chiamano matrimonio all'italiana, c'è anche la cinematografia che ci ha lavorato tanto sopra, esatto, professor. Esatto, basta vedere, ma è stato di maggiore successo non soltanto proprio sulla scena internazionale, nessuno ha avuto un matrimonio così forte come c'è stato in Italia, sia per, come dire, intensità del fenomeno, cioè perché si sposava tutti, sia per la consistenza del matrimonio. Ora, lei pensi che questo matrimonio, il matrimonio italiano, ha retto tranquillamente agli anni 60, cioè gli anni 60 il matrimonio l'hanno fatto assolutamente un baffo. Il matrimonio degli anni 60 e agli inizi degli anni 70 è stato più frequente che non ai tempi del fascismo, quando c'era addirittura la tassa sul celibato. Questo per dire che cosa? Che il matrimonio è stato un grande successo che non ha retto al divorzio, perché il matrimonio in Italia comincia a perdere colpi e, come dire, a perdere intensità, a perdere frequenze, si sposa sempre meno, proprio a partire dal 1974, che segna con il referendum sul divorzio rigettato dagli italiani, segna l'introduzione a tutti gli effetti della legislazione sul divorzio. Perché l'Italia, che ha avuto un matrimonio così di successo, non regge al divorzio? Per due motivi. Il primo è questo: noi abbiamo conosciuto un divorzio che chiamo un divorzio rimedio, cioè non siamo passati attraverso il divorzio sanzione che c'è stato praticamente in tutti i paesi, che era un divorzio a cui si accedeva per colpa di un coniuge, quando un coniuge metteva una colpa grave rispetto all'altro. Certo. Noi siamo arrivati subito al divorzio rimedio, cioè al divorzio che in cui un matrimonio si può semplicemente sciogliere perché la coppia non funziona più. Cioè, noi non ci siamo abituati a un divorzio per colpa, che è un divorzio graduale. Siamo passati subito al divorzio esteso. Professor Volpi, posso dire che noto che lei lo sta dicendo con grande tristezza tutto questo? Ma è un'analisi che le dispiace. C'è un'implicazione fortemente negativa. Qual è l'implicazione fortemente negativa? In Italia il matrimonio aveva, come dire, un marchio di fabbrica, un marchio di qualità. Era come le corde di un ring che pigliavi dei colpi, ma tutto sommato ti tenevano. Con il divorzio subito, di questo tipo di divorzio, il divorzio rimedio esteso, questo marchio di qualità si è perso e l'italiano non ci si è più ritrovato. Cioè, la domanda che esistenziale che sta sopra questi dati è: ma se il matrimonio non protegge più, non protegge più la coppia, non protegge più la durata dello stare assieme e così via, allora che ci sposiamo? Quindi era il perno della tenuta sociale, dice lei, che oggi manca, che oggi viene a mancare. Esattamente. Allora, io volevo ritornare, anzi adesso faccio sentire qualche ascoltatore, poi volevo tornare all'avvocato Catizzone dell'Eurispes, appunto proprio perché chiaramente volevo farle commentare se lo ritiene anche questa nota che il professor Volpi ci ha fatto poco fa, anche con la propria connotazione di tristezza. Io torno a rimarcarla perché sento quasi come se effettivamente desse questa chiave di lettura molto triste del nostro spaccato sociale, eppure questa è, come dire, la direzione verso la quale stiamo andando, che poi gli istituti fotografano come fa Eurispes, e quindi verso che cosa ci porterà anche tutto questo. Magari cerchiamo di fare anche un po' una piccola previsione, però intanto qualche ascoltatore. Luigi da Firenze, buongiorno, che aspetta da un po' e lui voleva raccontare, ci faccia rallegrare, ci racconti un po' il suo matrimonio, come l'ha organizzato, Luigi. Guardi Deborah, io ho 35 anni e il mio matrimonio, vedendo le foto di mio padre, l'ho fatto alla sua maniera. Vi spiego in chiave moderna. Io volevo dire però un accenno al signore di prima: se lei va a vedere i divorzi in Italia, sono i divorzi di quelle persone che si sono sposate negli anni 70. Adesso la situazione è meglio perché i quindi giovani... dà ragione al professor Volpi, i divorzi, cioè perché le separazioni. Perché se tu convivi con una persona riesci a capirlo e alla fine fai il passo che per me, lo ripeto, è il passo più bello della mia vita, ma non perché devo sposarmi per forza, è perché io praticamente amo la persona che mi ha dato anche una figlia. Io l'ho fatta prima la figlia, però Deborah, io credo sul matrimonio, sulle spese. Guarda, io scioccherei praticamente le persone. Io abito in Toscana, sapete come è fatta la Toscana, ville toscane, cioè ho degli amici che praticamente, io sono un umile operaio. Allora io praticamente l'ho organizzato in questo modo: ci trovavamo con la mia ragazza a vedere delle foto dei miei genitori, e i matrimoni all'antica, ce lo può spiegare anche il professore, erano semplici, ognuno praticamente portava modestamente quello che poteva. E io come ho fatto? Io ho messo negli inviti alla gente: non voglio soldi, voglio solamente una cosa. Primo, non voglio praticamente il consumismo del lusso, voglio che ogni persona sia libera di vestire come vuole. Secondo, un mio amico mi ha prestato una villa e quindi praticamente abbiamo organizzato tipo catering. Però la diversità di tutto, io ho chiesto che ognuno di queste persone, senza vergogna, portasse praticamente un qualcosa da mangiare. Luigi, insomma, lei ha fatto una vera e propria festa, non ha fatto il matrimonio così come lo identifichiamo noi, con questi ricevimenti che non finiscono più, si mangia per 4 ore quando va bene, si comincia la mattina con la cerimonia e quant'altro. Insomma, lei ha fatto una cosa molto tranquilla, ma credo che ormai oggi molti giovani tendono a voler fare. Però qualche volta ci sentiamo un po' spinti dai genitori anche a rifare il matrimonio, diciamo, di tradizione. Lei comunque è stato tranquillo da questo punto di vista, ma non per tutti magari è così. C'è chi sente anche proprio un'implicazione di dover accontentare tutta la famiglia a fare qualcosa di diverso. Non è mica facile a volte avere delle scappatoie da tutti questi condizionamenti, non trova? Deborah, è facile. Praticamente è talmente semplice la cosa, perché se lei va a vedere quello che succede col consumismo, cioè, come posso dire, praticamente ormai siamo condizionati. Io ho speso praticamente pochissimo, ho speso 30.000 euro, però le dico che praticamente c'è un intreccio di culture che lei era, che io le farei vedere, ci siamo divertiti un mondo, e quindi non andavamo lì praticamente a vestirci per benino, eccetera. È un discorso di integrazione totale, tutti partecipavano. No, tra l'altro poi si parla a volte anche di immaturità, emancipazione. Emanciparsi a volte potrebbe voler dire anche questo, uscire da tutte queste da questi condizionamenti dei quali parlavo, scegliere di fare qualcosa di diverso, appunto, e far capire che effettivamente il matrimonio lo si vuole fare perché si crede in qualcos'altro e non perché... Ecco, c'è anche un altro ascoltatore che voleva raccontarci, ad esempio, insomma, il matrimonio è un percorso che porta anche alla costruzione di una vita insieme, perché si deve partire per esempio con la casa già fatta e pronta, si può partire con qualcosa di molto più modesto e poi costruirla insieme. Anche costruire una casa significa costruire, dare corpo proprio anche tutto il, come dire, il castello del matrimonio. Allora, noi adesso dobbiamo forse fermarci un'altra volta per i suggerimenti per chi è in viaggio, poi ancora altri ascoltatori, c'è Michele da Bergamo, che comunque le prese di posizione da parte vostra hanno ben poche sfumature, sono molto spaccate, sto vedendo. C'è chi ritiene che ci si sposi sempre di meno solo ed esclusivamente perché la problematica è di natura economica, e chi invece appunto ha una convinzione radicalmente opposta, chi ritiene che non ci si sposi solo perché non ci si crede più. Quindi insomma le sfumature ne vedo molto poche. Il mondo è bianco o nero, poco grigio, quindi questa sarebbe stata una bella trasmissione anche per Alessandro Milan. A tra poco. Allora, raccolgo molto volentieri, con grande piacere, testimonianza di un sacerdote che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Don Pino da Firenze, speriamo di non essere stati offensivi in alcun modo. Questa mattina noi volevamo veramente dare una lettura da parte di Radio 24 delle cifre che gli osservatori di statistica ci forniscono, e qualche volta ci sembra interessante analizzarli fino in fondo. Cosa ne pensa di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, Don Pino? Allora, prima di tutto buongiorno, saluto tutti. Non siete stati assolutamente offensivi, non vedo che si possa essere offensivi. Avendo chiamato un sacerdote, mi sono preoccupata, dico mamma mia, chissà che cosa abbiamo detto, ma... No, ci credo, perché purtroppo anche noi sacerdoti non è che sempre siamo intelligenti, insomma, ecco, da questo punto di vista. Oppure dunque, no, io volevo semplicemente... Don Pino, ma cosa le dicono le giovani coppie che vengono da lei, si vogliono sposare, fanno i corsi prematrimoniali, hanno problemi economici, questi ragazzi come se la passano? Esatto, allora, due punti. Il primo è questo, che può rimanere male chi mi ascolta. Allora, il primo è questo qui: come mai non tutti diventano sacerdoti o diventano suore? Perché? Perché è una scelta, una vocazione. Il fatto di queste crisi dei matrimoni, ci sono crisi economiche e altri problemi, ma perché purtroppo il matrimonio è una invenzione umana imposta dagli uomini, non è una scelta. Fin quando sia la Chiesa e sia lo Stato non lascerà alle persone la libertà di scegliere ciò che desidera e ciò che vuole, si andrà sempre di più in crisi. Questo è il primo punto. Ah, è mai capitato sentire o sapere, almeno in Italia, ad esempio, se un diciottenne, un diciassettenne, non so, non ha una ragazza, non dice che è fidanzato, quale guerra viene fatta psicologica nei suoi confronti? Quindi il tema è quello del condizionamento generale che ci circonda. Certo, ma certo, è una imposizione, imposizione. Non ci si sposa, nella maggior parte dei casi, perché uno si ama, assolutamente. Ma questo non era un po' di più, Don Pino, negli anni 50, negli anni 60? Adesso è un po' meno. È un po' meno nelle coppie che intelligentemente scelgono di stare insieme senza alcun vincolo, fanno un'esperienza, quando vedono che sono fatti l'uno per l'altro scelgono una istituzione. Uno per diventare sacerdote, faccio questo esempio che credo sia importantissimo, vive 6 anni in seminario, perché non diventa subito sacerdote? Quindi lei mi sta dicendo che è uno di quei sacerdoti che prima del matrimonio vede volentieri una convivenza fra le persone per sperimentare la vita insieme? Ma certamente, ma non come prova, perché bisogna conoscersi. Perché faccio l'esempio del seminario? Cioè, voglio dire... No, ma è calzante, io la ringrazio anzi per averci... Per diventare prete sta 6 anni in seminario, per vedere se può fare il prete. Poi viene fatto il prete. Allora perché condannare due persone che si conoscono, stanno insieme, arrivano, raggiungono a convincersi se vogliono stare insieme, allora scelgono o il matrimonio civile. Don Pino, io colgo molto volentieri la sua presa di posizione da sacerdote molto illuminato, perché sono assolutamente sicura che non tutti i sacerdoti, né quelli che lei conosce né quelli che conosciamo noi, appunto, la pensino nella stessa maniera, ma insomma siamo contenti che ci siano anche delle posizioni così nette. Vado all'avvocato Catizzone, appunto, perché l'ho lanciata all'inizio. Beh, se parlavamo prima di una necessità di cambiare la definizione presente nella Costituzione di famiglia, la definizione di famiglia, appunto, per la definizione che le abbiamo dato prima di insoddisfacente sulla base della lettura che gli osservatori di statistica e di appunto anche di studi sociologici appunto fanno, anche la presa di posizione di un sacerdote che abbiamo sentito in questo momento ricambia di nuovo le carte in tavola. Che cosa ne pensa? Ma sicuramente sì, è una posizione certo che sta un po' fuori dal coro rispetto a quello che normalmente si sente da questo ambito. Ma noi come Eurispes, riallacciandoci anche alla posizione del professor Volpi, abbiamo deciso di costituire questo osservatorio sulle famiglie, che comunque è diverso da tutti gli osservatori che già esistono nel nostro paese, anche perché riconosciamo che è vero sì che il ruolo della famiglia si è modificato nel corso degli anni, ma abbiamo altresì verificato che la famiglia rimane comunque un'istituzione fondamentale per gli italiani, soprattutto un'istituzione fondamentale poi di famiglia, non solo quella, poi andiamo alla parte diciamo giuridica e normativa, ma in ogni caso la famiglia, che sia la famiglia matrimoniale, che sia la famiglia di fatto, che sia la famiglia monogenitoriale, che siano tutte che siano le famiglie tra coppie omosessuali e tutto, comunque sia, rimane un punto di riferimento molto importante per la formazione individuale dei soggetti. E anche per questa ragione che noi abbiamo deciso di costituire in questo momento un osservatorio che appunto analizzi la realtà sociale del nostro paese. Per quanto poi riguarda quello che sosteneva lei, il fatto dell'insufficienza della disposizione costituzionale che è relativa alla famiglia, la Costituzione è sotto gli occhi di tutti, ma non è una posizione solo delle Eurispes, ma una norma che parla di società. Pronto? Sì, ci siamo. Sì, di società naturale che è fondata sul matrimonio, è chiaro che questa definizione non basta più, è insufficiente e dada una tutela giuridica, come anche veniva precedentemente detto. Poi noi avvocati ogni giorno ci troviamo di fronte a questa insufficienza normativa ed è un'insufficienza normativa che noi vogliamo studiare e analizzare. Mm-hmm. Poi faremo delle proposte in base ai dati che emergeranno dall'esame della società, ma è sotto gli occhi di tutti che una disposizione che tuteli il nucleo familiare fondato solo sul matrimonio sia una disposizione che sia insufficiente. E con questo non vogliamo dire che la famiglia cosiddetta tradizionale fondata sul matrimonio sia una famiglia da rottamare o da non considerare più. Assolutamente, è un modello di famiglia che si affianca ad altri tipi di modelli, quindi noi non vogliamo fare una classifica delle famiglie, vogliamo semplicemente mettere in evidenza quelle che sono le tipologie di unioni familiari che esistono nel nostro paese. E fare in modo appunto che poi le istituzioni prendano atto dei cambiamenti della società. Avvocato Catizzone, grazie, mi mancano 2 minuti prima di salutarci, adesso vorrei concludere con una battuta dell'avvocato Gassani che ho lasciato lì appeso per tutta la trasmissione, magari se riesco a sentire anche Michele da Bergamo in 12 secondi. Michele, grazie. Buongiorno a tutti. Io rapidissimo, rapidissimo la mia esperienza. Io convivo da 5 anni, ho avuto una bambina 2 anni fa, ho deciso quest'anno di sposarmi nel prossimo settembre proprio per dargli delle tutele che alla fine mancano, anche perché in comune la decisione era stata presa, l'ufficiale dell'anagrafe, questo non so se sia vero, ma mi ha detto che nonostante la bambina è stata riconosciuta, è comunque illegale, illegittima perché è fuori dal matrimonio. Michele, grazie. Avvocato Gassani, magari una battuta sul caso di Michele da Bergamo, ma anche prendendo un po' a spunto per trarre delle conclusioni io la chiamerei anche un po' una provocazione invece di Don Pino da Firenze sulla necessità di fare l'esperienza precedente. Detto questo, l'accordo prematrimoniale per esempio risolverebbe un po' di problemi, favorirli un po' di più? Ma guardi, io sto preparando un disegno di legge che presento fra una quindicina di giorni alla Commissione Senato sui patti prematrimoniali, quindi stiamo lavorando noi avvocati matrimonialisti proprio per introdurre anche nel nostro paese questa alternativa al codice. È possibile anche in Italia, sarebbe possibile confezionarsi i matrimoni su misura, ma al di là di questo io penso che Don Pino sia un grande, perché è il primo sacerdote che sostiene... Ha una standing ovation da parte di molti ascoltatori. No, io lo voglio conoscere, datemi il numero di Don Pino, perché lo invito al prossimo convegno. Ma vorrei dire questo, secondo me non si può liquidare la vicenda di cui stiamo parlando, maledicendo la legge sul divorzio. No. Ah beh, sì, certo. Sì, allora, ribadisco, sarebbe stato necessario effettivamente ampliare moltissimo la nostra discussione. Detto questo, però, poi cogliamo tutte le prese di posizione, appunto anche quelle che magari non ci convincono fino in fondo, come quella del professor Volpi, che forse non aveva una posizione personale, ma sulla base di tutti i suoi studi che fa è arrivato a quella conclusione, che poi sarà sicuramente e assolutamente rispettabilissima. Grazie all'avvocato Gassani, all'avvocato Catizzone, Roberto Volpi, che è stato con noi e lo abbiamo già salutato. Grazie a Franco Piantanida, Alessandro Marcotulli, per avermi aiutato in questi giorni di turno doppio a Radio 24. Filippo Aureggi stamattina in assistenza tecnica. Io ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi in tutte queste mattinate. Lunedì torna Oscar Giannino. Vi devo ricordare solo un'altra informazione di servizio: domenica con Il Sole 24 Ore c'è il libro di poesie Ernest Hemingway, Sotto il crinale e altri racconti. Non perdetelo, perché costa solo 50 centesimi. Buona giornata a tutti. 9 in punto.